chiamato anche Boffo le scorse settimane, lo ah, sa. Pure? Tutti sì. Ma tutti, è per questo che lei non può dimettersi a deputato, perché ormai... Perché io, quando, dopo che questo tormentone sì. sul metodo trattamento, cos'era Boffo, sì. andava avanti all'infinito, ho approfittato dell'occasione in cui lui è stato, Dino Boffo è stato nominato direttore del News di TVSA 2000, sì. per fargli gli auguri e spiegare tutta la vicenda. E raccontare come io avevo citato una cosa di Feltri sì. in conclusione della polemica vabbè. Con Boffo che il nostro Telese si era acchiappato in un modo un po' più politicamente scorretto chiamandola ipotesi Boffo e che il suo direttore, il suo titolista aveva fatto diventare trattamento Boffo, in una escalation gigantesca e quando ho scritto questa cosa poi Dino Boffo sul predellino Dino Boffo l'ha letta, si è procurato il mio numero di telefono che non aveva e mi ha chiamato per ringraziare anche lui, io a ringraziare lui della sua comprensione, perché io gli ho chiesto scusa se ho provocato danno a lui e lui ha detto ti abbraccio come a Berlusconi. E capita di sbagliare e te lo riconosco, ti riconosco l'onore delle armi. Io ho detto sono lieto di questa sua telefonata. E non vi siete abbracciati telefonicamente come con Berlusconi, no? È più complicato abbracciarsi telefonicamente. No, Berlusconi mi ha detto ti abbraccio appunto, nel saluto. E io invece ho detto grazie Dino, ti ringrazio di questa telefonata. Ma insomma, anche perché non ci conosciamo di persona e spero di poterlo fare prossimamente.